9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon mercoledì 23 dicembre. Parto citandovi direttamente alcune delle parole, le prendo direttamente dal documento che trovate sul sito di alcuni quotidiani italiani, e il documento è illustrato ieri, parola per parola, con molte slide, come nel suo stile personale da amministratore delegato di Fiat Auto Sergio Marchionne, ieri a Palazzo Chigi in una riunione con il governo e i rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL. Il punto qual era? Era l'aggiornamento del piano industriale nei prossimi anni della Fiat in Italia. E all'ordine del giorno, in realtà, un po' il punto era uno: la sovraccapacità della produzione in Italia nei 5 insediamenti produttivi che mantiene Fiat aperti, perché ad Arese, come sapete, Alfa Romeo non c'è già più, e le prospettive nei prossimi anni, gli impegni che la Fiat ha illustrato alle parti sociali e alla politica in cambio di che cosa? Innanzitutto la Fiat chiede la protrazione degli incentivi che in questo 2009, ce ne siamo occupati la settimana scorsa, vi ricordate, sostengono il livello del mercato dell'auto nel nostro paese in questo anno, a un livello in cui alla fine del 2008, un anno fa, quasi nessuno avrebbe scommesso che sarebbe stato, saranno più o meno 2.100.000, 2.150.000 le nuove automobili acquistate grazie al regime degli ecoincentivi in cambio di rottamazione, non di rottamazione, in cambio di propulsioni meno inquinanti dal punto di vista del CO2. Le previsioni sono che in caso di una conferma degli incentivi pubblici all'acquisto ecologico, l'anno prossimo possa rimanere sui livelli di quest'anno, anche qui 2.100.000 più o meno. Io ricordo che nella media del decennio precedente alla crisi nel mercato italiano dell'auto si vendevano 2.300.000 auto, quindi siamo poco al di sotto, ma comunque molto meglio di quello che avrebbe potuto essere se lo Stato e i contribuenti non avessero messo mano al portafoglio. In cambio di questo regime di incentivi, che è un regime di incentivi che Fiat chiede venga adottato perché verrà confermato, sostiene, in tutti gli altri paesi europei, ed è ragionevole, l'amministratore delegato ha illustrato, Marchionne ha illustrato il punto all'ordine del giorno. Il punto è che la sovraccapacità presente in Italia, dice Fiat, non si può difendere così com'è. Innanzitutto ha ricordato che è vero che negli Stati Uniti in questo momento Fiat con Chrysler sta approfittando di pingui sostegni pubblici. Pensate che solo a Chrysler l'amministrazione Obama ha dato oltre 15 miliardi di dollari che Fiat dovrà restituire nei prossimi anni, però in cambio di questo, ha ricordato Marchionne, cito testualmente, il numero di stabilimenti Chrysler negli Stati Uniti è stato fortemente ridimensionato, sta passando da 20 a 13, e rispetto a una decina di anni fa, sempre a parole di Marchionne, quando gli impianti Chrysler erano 29 negli Stati Uniti, la capacità produttiva dell'azienda è stata più che dimezzata, e anche se consideriamo la forza lavoro di Chrysler negli USA, la riduzione è stata drastica, ha detto Marchionne. Tra il 2004 e oggi il numero degli operai in Chrysler è diminuito di più del 40%. Lo stesso è successo per gli impiegati, e in soli 12 mesi, da giugno 2008 a giugno 2009, ha detto Marchionne, l'organico complessivo di Chrysler è stato ridotto di un quarto in 12 mesi, il che equivale a 17.000 posti di lavoro in meno. Queste sono le cifre della razionalizzazione dell'occupazione, razionalizzazione, insomma, abbattimento dell'occupazione in Chrysler in cambio dell'aiuto pubblico molto forte degli Stati Uniti, ma in vista di una riduzione dei volumi produttivi perché il mercato assorbirà di meno. Marchionne su questo è molto esplicito, dice: voi ci dovete dare gli incentivi, ma questi incentivi sono per una elevata percentuale semplicemente anticipazioni di acquisti futuri. Anzi, la cifra che fa Marchionne è una cifra sulla quale poi ragioneremo con i nostri ospiti, perché nel mercato italiano, grazie agli ecoincentivi, da febbraio a fine ottobre, da quando abbiamo le cifre, sono più o meno 800.000, 795.000 gli acquisti di nuove auto sostenuti con gli incentivi pubblici. Ora, di questi 800.000, che quindi al ritmo di questi 8 mesi, prevedendo che tra novembre e dicembre saranno ancora più elevate, non meno elevate, in vista della fine del regime, saremo più o meno a 1 milione di veicoli nuovi acquistati nel nostro paese grazie agli incentivi. C'è chi dice che, per esempio, in realtà di aggiuntivi veri, cioè non di pure anticipazione di acquisti sull'anno futuro, più o meno bisogna considerare non più del 50%, ma saremo già a 400-500 mila veicoli. Invece Marchionne ieri ha detto che sul totale degli oltre 3 milioni e mezzo di veicoli nell'intero mercato europeo acquisiti nuovi in questo anno 2009 grazie agli ecoincentivi, lui calcola che solo 405.000 in tutta Europa, 400-500.000 siano in realtà gli acquisti aggiuntivi veri, cioè al netto dello sconto. Quindi innanzitutto, come vedete, c'è una differenza molto forte su quali siano gli acquisti veri in più che si fanno grazie al regime degli ecoincentivi. Ma veniamo alle cifre che Marchionne ha illustrato ieri a Governo e Sindacato per il futuro delle prospettive degli stabilimenti Fiat in Italia. Ecco qua, i 5 stabilimenti di Fiat Group Automobiles, dice Marchionne ieri, in Italia producono nel complesso 650.000 vetture l'anno e occupano quasi 22.000 persone su un totale di circa 30.000 dipendenti di Fiat Auto nel nostro paese. 22.000 sono pochissimi, eh? Ricordatevi questi numeri, perché di solito poi si dice che Fiat sono non si sa quanti punti percentuali di PIL nel nostro paese. È vero che c'è l'indotto dell'auto, ma sono 22.000 occupati in tutti gli operai Fiat oramai nei 5 stabilimenti ancora aperti. Allora, in Polonia, continua Marchionne, un unico stabilimento produce circa gli stessi volumi dell'Italia, 650.000 veicoli nei 5 stabilimenti Fiat nel 2009. In Polonia, unico stabilimento, il numero di addetti è meno di un terzo dei 22.000 complessivi italiani e si producono 600.000 veicoli rispetto ai 650.000 di quelli italiani. In Brasile, continua Marchionne, un solo impianto Fiat produce con 9.400 persone, cioè il 40% del totale dei dipendenti di Fiat Auto in Italia nei 5 stabilimenti, in un solo stabilimento in Brasile produce 730.000 unità l'anno, cioè ben più del totale della produzione dei 5 stabilimenti Fiat in Italia. Sono dati che parlano da soli, dice Marchionne e prosegue. Il numero di vetture per addetto è del tutto sproporzionato. Non è una questione di efficienza, ma un livello di saturazione e utilizzo degli impianti che non risponde a nessuna logica industriale. È chiaro che se avessimo potuto disegnare da zero la realtà produttiva italiana, non l'avremmo mai fatta come quella attuale. Marchionne lo aveva già detto, cioè in un'intervista la settimana scorsa a Automotive News, che è il più autorevole giornale del settore automobilistico nel mondo, ha detto due cose, insomma, di un certo peso. Ha detto che Alfa e Lancia con ogni probabilità cadranno nei prossimi anni, non ci saranno più i brand e i marchi. E poi che se dipende fosse dipeso da lui, questi 5 stabilimenti in Italia non ci sarebbero mai stati dove stanno, e lo ha confermato. La faccio breve, in questi termini, perché poi c'è l'illustrazione stabilimento per stabilimento di quello che Fiat si impegna a fare nei prossimi anni. Marchionne ha annunciato un programma di 8 miliardi di euro nel prossimo triennio, quindi un programma impegnativo. Per termini merese c'è la conferma dello stop definitivo alla produzione di autoveicoli Fiat a fine 2011, e per Pomigliano, anche per Pomigliano, che è lo stabilimento nel quale nel 2008-2009 Fiat ha, con una certa, diciamo, con una certa freddezza, ecco, non voglio definirla, concentrato la produzione di quelli veicoli di gamma non incentivati all'acquisto, e quindi Pomigliano è diventato lo stabilimento i cui livelli produttivi sono quelli più colpiti dalla contrazione del mercato malgrado gli incentivi pubblici. Per Pomigliano c'è un problema altrettanto aperto, perché ha illustrato ieri Marchionne, se davvero si vuole che Pomigliano resti aperto a un livello soddisfacente di saturazione per i suoi 5.200 dipendenti, cioè se vogliamo che al 2011 la Fiat vi insedi la linea della nuova Fiat Panda con 200-300.000 unità prodotte almeno l'anno, e per evitare che la nuova Fiat Panda si faccia altrimenti in Polonia, ecco, se si vuole questo, per Pomigliano, ha detto Marchionne, c'è un'enorme necessità di nuovi investimenti, e quindi ha praticamente teso la mano per dire: ma insomma, il governo, se ci tende, se ci tiene all'apertura almeno di Pomigliano nel sud, visto che il termine merese la chiudiamo, beh, dovremmo trattare, perché vogliamo qualcosa, perché altrimenti, dipendesse da me, a Pomigliano non ce la metterei la nuova Panda. Ora, in parole povere, si difenderanno solo Mirafiori, i 5.800 dipendenti di Mirafiori, a cui nel 2010, rispetto alle attuali produzioni di Punto, Idea, Lancia Musa, Alfa Mito e Fiat Multipla, si farà la Fiat Idea, la Lancia Musa, l'Alfa Mito e una Fiat Monovolume. Si difende Cassino e Melfi, che sono i migliori stabilimenti dal punto di vista della produttività Fiat in Italia, e a Cassino, rispetto alla Fiat Bravo, Lancia Delta e Fiat Croma di oggi, ci sarà sempre la Fiat Bravo e Lancia Delta e l'Alfa Giulietta e la Fiat Croma nel 2010-2011, mentre a Melfi si resta sulla Fiat Punto oggi e 2010. Tradotto, attenzione, significa che Gli studi sulla propulsione ibrida elettrica, nonché la loro attuazione, vanno con Chrysler negli Stati Uniti. L'integrazione con Chrysler prenderà il più delle energie, sia dal punto di vista delle trasmissioni, dell'impianto di multi-air e dal punto di vista della sinergia delle nuove piattaforme che Fiat si è impegnata a ridurre come numero in Chrysler e a condividere almeno il numero di 3 entro il 2004-2015 tra Fiat e Chrysler. Fine di tutto questo per dire: le richieste sono evidenti, Termini si chiude, Pomigliano per farlo rimanere aperto oltre agli incentivi. C'è un problema aperto anche di nuovo programma pubblico per Pomigliano. Reazioni a tutto questo. Oggi i giornali italiani pubblicano l'incontro, le reazioni sono ancora contenute, ci sarà da discuterne ovviamente nei prossimi giorni. Ecco i nostri ospiti. Abbiamo con noi, e di molto ringrazio di questo, visto che siamo ormai vicini a Natale, Andrea Giuricin, che è fellow dell'Istituto Bruno Leoni, giornalista e autore di molti saggi sul sistema dei trasporti in Italia da un punto di vista dichiaratamente mercatista, e per questo sono molto lieto che sia qui. Buongiorno Andrea Giuricin. Buongiorno a tutti quanti. Ugo Bertone, che è stato direttore, nonché mio direttore in finanza e mercati, lunghissima carriera in grande testata italiana. Buongiorno Bertone. Buongiorno Oscar. E Paolo Malagodi, che insegna economia dei trasporti all'Università di Ancona e fa l'analista per solamente 4 ore nel settore dell'auto. Io inizio da Bertone perché diciamo accettiamo per convenzione, per un momento, tra tutti noi che è il più senior e il più esperto nel capire dal di dentro, dopo essere stato anche molti anni a Torino, che cosa bolle davvero nella pentola Fiat. Innanzitutto, i dati non ci stupiscono per noi che conosciamo il settore degli stabilimenti in Italia. Pomigliano secondo te si difenderà alla fine oppure no? Assolutamente sì, ci sono delle valutazioni politiche, Marchionne anche se gioca a fare un discorso global e anche un astuto uomo local, l'ha dimostrato in America, lo dimostrerà anche in Italia, sa benissimo che Pomigliano va difeso, però si parte da una situazione in cui una Panda a Pomigliano viene a costare 600 euro in più che a produrla a Tichy, e quei 600 euro bisogna ridurli, molto con investimenti interni, molto anche con una missione, un commitment a dare una nuova faccia e un nuovo orgoglio a quella fabbrica che ne ha viste di tutti i colori, molto con l'intervento pubblico, non ci sono dubbi. Tu dici, se non ci fosse la prospettiva di far rimanere comunque aperta Pomigliano, 2 anni e mezzo fa non avrebbe investito tutti quei soldi per migliorare la preparazione dei dipendenti, la Fiat, perché questo l'ha fatto obiettivamente. Assolutamente sì, come hai giustamente fatto notare, ormai i dipendenti diretti Fiat per l'auto, esclusivamente per l'auto, sono solo 22.000, ma il peso simbolico di quella presenza è enorme e io credo che se ci rivolgiamo all'uomo della strada risponderà che saranno almeno oltre i 100.000 i dipendenti Fiat, tale è il valore simbolico di quella presenza. Oh, Giuricin, il costo medio allo Stato, diciamo così, degli incentivi pubblici è stato quantificato in più o meno più di 1.500-1.600 euro per media veicolo, qui bisogna tenere conto che ci sono incentivi in cambio di rottamazione, anche incentivi in cambio di non rottamazione, naturalmente può arrivare fino a oltre 5.000 euro l'incentivo se si totalizza il massimo, diciamo così, della minore emissione a fronte di vecchio autoveicolo, però in medio accettiamo che siano più o meno 1.600 euro per veicolo. Fiat dice: vabbè, ma questi incentivi mica sono un regalo alla Fiat, noi ce li autopaghiamo, anzi siamo in credito per 800 milioni di euro dallo Stato. Allora però il problema è che forse si trascura il fatto che non è che l'IVA sui nuovi acquisti, a parte quanti siano aggiuntivi o meno, come abbiamo visto, perché lo stesso Marchionne ci dice che sono molto pochi secondo lui, ma al di là di questo non è l'IVA sui nuovi acquisti che ripaga, dal punto di vista Fiat, ripaga gli incentivi, perché si dimentica che poi in realtà le tasse sui nuovi acquisti, come tutti, su tutti i veicoli, abbiamo fatto il conto la settimana scorsa dei 65 miliardi di prelievo che vengono dall'auto pagati dai consumatori, cioè dagli acquirenti, e si sommano i 38 miliardi di euro pagati per i nuovi veicoli, oltre 100 miliardi di euro, ma li paga il consumatore, non è che la Fiat ripaga gli incentivi. Ma da questo punto di vista su cosa si fonda il ragionamento della Fiat per la quale è lei a pagare gli incentivi e non è in realtà un sostegno che riceve dallo Stato? Perché a me non è molto chiaro, a lei? Neanche a me è molto chiaro il ragionamento di Fiat. L'unica cosa chiara è che questi incentivi sicuramente in parte hanno sicuramente aiutato Fiat, però in parte non aiutano l'Italia, perché sono incentivi che in realtà tendono a dare una spinta molto breve nel tempo, che non tendono a modificare quelli che sono i problemi italiani dal punto di vista produttivo, dove esiste solamente Fiat a produrre, dove nessun investitore straniero ha mai posto un proprio stabilimento in Italia, perché non ci sono le condizioni, cosa contraria a quello che succede in tutti i paesi europei. Quindi non mi è chiaro il ragionamento di Marchionne, neanche a me sinceramente, e sono molto contrario a questi sussidi, continui incentivi, sussidi pubblici in un mercato dell'auto che ormai è globale. Malagoli, io sarei dell'idea che bisogna dare piena libertà, insomma, nei limiti di un paese moderno e con un confronto aperto sempre tra parti sociali, ma insomma piena libertà alle imprese a insediare gli stabilimenti e a definire l'occupazione a seconda dei diversi livelli di efficienza, ma in cambio però che non ci siano incentivi pubblici. Se ci sono gli incentivi pubblici, non capisco sulla base di che cosa in Italia dobbiamo fare noi la lotta alla sovraccapacità, mentre invece in Germania, in Francia, in tutti gli altri grandi paesi, ai produttori nazionali, i governi che mettono mano al portafoglio, anche loro, e anzi anche di più, però in cambio tengono dalle case nazionali la difesa delle produzioni nazionali. C'è questo mismatch che non mi è chiaro, su cui ti chiedo l'opinione. Seconda cosa, ma sono girate voci che termini merese potrebbe interessare ai cinesi, Aceri e così via, ma siamo proprio sicuri che non vale la pena di investigare questa ipotesi? Cioè, chi l'ha detto che per difendere i livelli produttivi, il know-how, l'indotto, Marchionne ha detto che di indotto dell'auto non ce n'è a Termini Imerese ieri, ma chi l'ha detto che per difendere il know-how dell'auto e dell'indotto bisogna difendere solo la bandiera nazionale del produttore nazionale? In Italia uno, in Germania e in Francia sono più di uno. Chi l'ha detto che non bisognerebbe dire ai cinesi venite qua, per esempio? Beh, partendo dalla seconda domanda, assolutamente positivo se i cinesi o qualunque altro produttore, può essere un indiano, da qualunque parte del mondo, viene a investire in Italia. Il vero problema è che bisogna vedere se poi il loro investimento sarà, diciamo, redditizio, perché se vanno a investire a Termini Imerese, dove ci sono dei problemi oggettivi di logistica, è difficile che effettivamente venga qualcuno ad investire. Quindi ho dei seri dubbi. Lo spero, però ho dei seri dubbi che venga a investire in Italia, anche perché visto il livello di burocrazia per fare un investimento in Italia è molto ma molto difficile, non solo nel settore automotive. Per quanto riguarda la prima parte della domanda, diciamo, è molto importante secondo me distinguere. Esistono paesi dove, come Germania e Francia, dove esistono dei grandi produttori nazionali, sono i due primi paesi produttori, diciamo, europei, con oltre 5 milioni e mezzo di veicoli in Germania e oltre 2 milioni in Francia. Esistono altri paesi in Europa che secondo me potrebbero essere un pochettino il benchmark dell'Italia, e questi due paesi sono ad esempio Spagna e Gran Bretagna. Questi due paesi non hanno più dei grandi produttori nazionali. Cosa fanno i diversi governi? Cercano di attrarre investitori stranieri, case automobilistiche straniere, per poter produrre veicoli sul proprio territorio. Non ne producono pochi, visto che in Spagna ne hanno prodotti più di 2 milioni di unità, mentre noi ne abbiamo prodotti 650.000. Esatto, in Gran Bretagna ugualmente. E si può pensare ad esempio, lo stesso viene fatto da Belgio e Repubblica Ceca, dove vengono prodotti più veicoli che in Italia. Quindi la Repubblica Ceca, da un punto di vista produttivo, è una potenza, è più importante rispetto all'Italia. Sentiamo Malagodi che dice, perché non vorrei che poi sembrassimo i soliti giovani liberisti che poi prescindono dalla complessità e dal sedimento e dal radicamento di che cos'è un'industria automobilistica. Malagodi, che dici rispetto a... No, quello che è stato detto lo trovo perfettamente calzante. Mi permetto di aggiungere una cosa sulla quale non vorrei fare io un rilievo critico, perché se fossi stato in conferenza stampa l'avrei chiesta a Marchionne di illustrarla meglio. Quando Marchionne dice la quota Fiat in Europa, leggo il virgolettato, sì, sul pezzo di Manan del Sole, è pari alla metà di quelle dei costruttori francesi e tedeschi nei rispettivi paesi, sembra imputare all'italiano il fatto che non compri automobili Fiat. In realtà non è affatto così. In Italia si compra, per il solo produttore che esiste in Italia, Fiat, più prodotto automobilistico di quanto non avvenga in altri paesi. La marca Fiat è al 26% come marca in Italia. In nessun altro paese europeo esiste una simile situazione. In Francia è Renault che è al 23%. Poi la Francia ha il 55% del mercato coi produttori nazionali, perché Fiat ha il 32-33%. Ma in Francia c'è anche un gruppo PSA che con Peugeot, che ha circa il 17, e Citroën che ha circa il 15, fa 32, andiamo a 55. In Germania andiamo oltre il 60, certo, con un gruppo Volkswagen che è quello che è, addirittura si è preso Porsche, si sta prendendo Suzuki, e anche se la produzione Suzuki resterà in Giappone e in Ungheria come attualmente, però abbiamo in Spagna, oltretutto, soprattutto Mercedes, BMW e Ford e Opel. La situazione italiana è anomala per il fatto che, come si diceva prima, nessuno ha mai pensato che occorresse un piano industriale per l'auto in Italia nel quale, oltre agli interessi legittimi di Fiat, si guardino agli interessi del paese. Oh, fermo, perché questo che ha detto Malagodi ha una certa importanza. Quindi gli incentivi, come abbiamo visto, ci sono, come in altri paesi, ma ci sono. Secondo, non c'è un piano dell'auto per non, diciamo così, dare problemi alla classica, unica industria nazionale. Quindi noi non abbiamo difeso il know-how complessivo, attirato plurimarche dall'estero, eccetera. Abbiamo sempre tutelato una. Allora questa dice: non comprate abbastanza, non compriamo abbastanza e spendiamo l'ira di Dio per sostenere con le tasse e il regime degli incentivi, lo Stato che ci fa un fracco di soldi, e compriamo in realtà da un unico produttore un bel po' di cose italiane in più. E qui per il momento mi fermo perché c'è la pausa pubblicità. Sul totale degli acquisti incentivati 2009, la quota Fiat è quella per casa produttrice sul totale del venduto più elevata, cioè 2 su 3 dei nuovi Fiat sono eco incentivati. Se andate a vedere BMW o Audi sono il 40%, non oltre il 40%, e anche case come PSA, Citroën o Renault, eccetera eccetera, sono molti punti in giù. Quindi Fiat è sul totale dei marchi, rispetto agli incentivi pubblici a spese del contribuente italiano, quella che se ne avvantaggia di più, oltre la quota nazionale del 27% del mercato che ha. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando delle conseguenze nei prossimi anni del piano illustrato ieri da Sergio Marchione, l'amministratore delegato di Fiat, per quanto riguarda i 5 residui stabilimenti in Italia. 5 che diventeranno sicuro 4 da fine 2011, visto che Termini Imerese stop ha annunciato ieri Marchionne, potrebbero diventare 3 e mezzo, perché a Pomigliano, insomma, la richiesta è: sì, se voglio mettere la linea della nuova Panda ci vogliono nuovi incentivi pubblici. Ora abbiamo collegato con noi il sindaco di Termini Imerese, che ieri ha partecipato insieme a una delegazione di Termini Imerese, e poi c'era anche chi rappresentava la Regione Sicilia al tavolo di questo incontro ieri a Palazzo Chigi, Salvatore Burraffato. Signor sindaco, ci dica l'impressione che ha avuto ieri sentendo Marchionne. Non mi pare che sia molto positiva quello che ha detto Marchionne. Che dice? Anzi, esattamente al contrario. Non ci aspettavamo un atteggiamento così risolutivo e pensavamo che ci fossero ancora margini significativi di manovra. La cosa che ci lascia più perplessi è che rispetto alle diseconomie di Termini non si voglia mettere in piedi una contrattazione per verificare se e come è possibile abbassare. Si preferisce chiudere la saracinesca di Termini per salvare altri 4 stabilimenti. Questo ci sembra davvero una sciagura, soprattutto per lo stabilimento del Mezzogiorno, che ha un rilievo nella nostra terra significativo. Signor sindaco, io leggo adesso le parole testuali che sono nel documento che è stato diffuso a Sergio Marchionne ieri. Dice testualmente così: siamo consapevoli dei risvolti sociali che ha una chiusura dell'impianto, capiamo bene lo stato d'animo dei lavoratori di Termini Imerese, noi siamo disposti a fare la nostra parte se ognuno farà la propria. E quando poi si tratta di illustrare in che cosa consista fare la propria parte per la Fiat, Marchionne dice: siamo disponibili ad aiutare e sostenere proposte di riconversione che dovessero arrivare dalla Regione Sicilia. Siamo disponibili a collaborare per approdare una soluzione che permetta di mantenere in vita una realtà occupazionale, non meglio definita, una realtà occupazionale per i lavoratori di Termini quando cesserà la produzione di automobili. Terza cosa, siamo addirittura pronti a mettere a disposizione lo stabilimento a fronte di un progetto che dia certezza di lavoro ai nostri dipendenti. In altre parole, vi lasciamo le mura dello stabilimento e siamo disposti a questo. Io leggo questo, cioè non ci vedo niente di concreto, ma al di là di queste parole che mi sembrano molto dure, voi avete notizia di qualche cosa? In che cosa può consistere questo residuo insediamento produttivo? Ma la Fiat dentro c'è o dice semplicemente fate voi e metteteci soldi pubblici? Signor sindaco? Mi pare che sia caduta la linea. Allora, nel frattempo che vediamo di riacchiappare la linea con Salvatore Burraffato, sindaco di Termini Imerese, iniziamo con alcune chiamate, perché avete chiamato in numerosi. Cominciamo innanzitutto con Raffaele da Cosenza. Prego, Raffaele. Buongiorno. Buongiorno. Io nell'82, ho 42 anni, nell'82 ho convinto mio padre a comprare un Aritmo con la motivazione: papà, i nostri soldi rimangono in Italia. Sì. Poi io ho sempre guidato macchine appartenenti al gruppo Fiat, ho sempre acquistato macchine appartenenti al gruppo Fiat. Fermo un secondo, lei crede che la scelta migliore all'acquisto sia non la qualità comparata per veicolo eccetera eccetera? Dice: io compro la Fiat senza guardare in paragone con gli altri, ma perché no, è nazionale. No. non è che mi suicido, insomma, però diciamo che il valore aggiunto che mi dà la Fiat rispetto alle altre marche è che i miei soldi rimangono in Italia. Io vivo in Italia, la mia famiglia vive in Italia, i nostri soldi rimangono in Italia. Questo per me è un grandissimo valore aggiunto. Ovviamente non mi vado a suicidare quando acquisto un'auto. Ma questo valeva nell'epoca pre-Chrysler, insomma. Perché adesso... perché adesso se la produzione rimane in Italia. Nel momento in cui la produzione dovesse uscire fuori dall'Italia, i miei soldi non dovessero più girare in Italia, io mi sentirei libero da questo vincolo. Anzi, le dirò di più. Io sto guidando una Libra e non la ritengo superiore alla concorrenza. Anzi, secondo me le tedesche sono pure migliori. Beh, insomma, adesso io mi permetto, non dovrei dire, ma aggiungo, direi, ecco, chiudo l'inciso. Prego, e allora, e c'ho malgrado, lei dice... Avevo convinto mia moglie, con la stessa motivazione, proprio in questo periodo, a comprare una Delta. Sì. A questo punto, cambia idea. Gli stabilimenti devono chiudere, io cambio, cioè io vado a casa e gli dico... È straordinario, Raffaele, però, lei è veramente straordinario, perché secondo me, io la ringrazio davvero di aver chiamato, perché fa capire che davvero tanti italiani fanno dipendere il loro atteggiamento, una scelta di consumo, da questo strepitoso ragionamento collettivo, cioè... Se sì, io devo dare una mano alla difesa dei livelli occupazionali, la compro la Delta. Se no, sapete che c'è. Allora a quel punto apro gli occhi e vedo che cosa c'è meglio sul mercato. E questo tipo di consumo collettivo italiano è veramente ancora tipico di un mercato come il nostro. Da una parte scalda il cuore, dall'altra io poi penso che è meglio comprare ciò che è meglio in termini comparati. Carlo da Roma, prego Carlo, lei come la pensa invece? Buongiorno, io penso che questo discorso, che vede ovviamente le posizioni giustificatissime e di cui prendo parte come sofferenza umana, diciamo, fanno parte della crisi cosiddetta, dalla quale io non ho mai creduto, dell'obbligo di rivedere i criteri che governano la produzione sulla dimensione non più protezionisticamente difesa dalle stati-nazione, ma su una base globale dove già le multinazionali, fra cui la Fiat, una delle ultime, sta operando. Allora, il mercato del lavoro è un mercato analogamente a quello dei televisori o dei telefonini. È irragionevole ritenere di poter beneficiare del mercato globalizzato. Carlo, per molti aspetti, perdoni, il mercato del lavoro non è omologato, nemmeno all'interno dell'Unione Europea, è un mercato ancora a forte caratteristiche nazionale. Dico, il mercato del lavoro è anche il mercato degli incentivi pubblici, come abbiamo visto, un mercato diversificato a livello nazionale. Quindi io la penso come lei, però dobbiamo realisticamente tenere conto. Sì, però realisticamente allora chiediamo al sindacato di dare una dimostrazione di quello che vuol dire solidarietà. Pronto? Sì. Perché la solidarietà verso i cinesi affamati che possono costruire la mia Panda a un terzo del prezzo permette di risparmiare risorse che per un giro o per un altro ritornano utili anche a investimenti nuovi Fiat, magari a termine di mese, invece di far produrre l'alta tecnologia negli Stati Uniti alla Chrysler. Chiarissimo. Quindi... No, grazie Carlo, io credo anch'io, il problema non credo sia tanto chiederlo al sindacato, il problema è quello di capire come nel mercato dell'auto, dove contano incentivi pubblici nazionali e dove i mercati del lavoro sono ancora, insomma, divisi, soprattutto in Europa, e nessuno vuole sacrificarsi a fare lotta alla sovracapacità a casa propria, non lo vogliono fare i francesi, non lo fare i tedeschi e così via, se l'Italia invece diventerà il paese europeo in cui la lotta alla sovracapacità si concentra esattamente sulla propria quota nazionale di dipendenti, la propria quota nazionale di stabilimenti. Io mi auguro che questo avvenga, in cambio del fatto però gli incentivi pubblici non li diamo, ecco, questo mi sembrerebbe più corretto. Con il sindaco che è alle prese con problemi di trasferimento da Roma a Termini Imerese, non riusciamo a stabilire il collegamento, approfondiamo di nuovo con, ricominciamo da Ugo Bertone. Non c'è questa dissimmetria tra come in Europa ci si accolla la propria quota nazionale di lotta alla sovracapacità, che resta sicuramente nel settore dell'auto, perché in Germania e Francia questa riduzione non c'è, perché il livello tecnologico che i diversi marchi di quei paesi hanno salvaguardato negli insediamenti produttivi, visto che non hanno certo un costo del lavoro inferiore a quello polacco o brasiliano, sono tali da aver salvaguardato la base di produzione nazionale su livelli molto più alti di quella italiana, Ugo, secondo te? Ma secondo me siamo di fronte a delle lobby perverse in Europa. Tanto per cominciare, esiste un'enorme sovracapacità produttiva che è concentrata in Europa, dove esiste una forte quota di stabilimenti molto vecchi, perché la Germania non ha chiuso un solo stabilimento dal 1945. Nel frattempo sono cresciuti dei legami internazionali molto forti. All'ascoltatore, gentile ascoltatore di Cosenza, vorrei far notare questo, che oggi gli 8 decimi di una Audi sono fatti di componenti prodotti nel Veneto. In cambio una buona fetta delle Fiat attuali, come abbiamo ben notato, viene prodotta in Brasile o in Polonia, e molto probabilmente la sua automobile è made in Italy solo dal punto di vista del marchio. In questo momento esiste già una forte internazionalizzazione. La cosa che mi sembra di poter dire è che, al di là di tutti gli errori del passato, quello che ha fatto ieri Marchionne, almeno su 2 punti, è encomiabile. Primo, la chiarezza. Non è andato ad aprire una trattativa in cambio di aiuti, e prendiamogliene merito. Secondo, il suo non è un piano difensivo. È nei limiti del possibile di una realtà italiana che non è la migliore di tutte, perché ovviamente sarebbe molto meglio per lui produrre tutto in un solo o in 2 soli siti italiani, ma è quantomeno una razionalizzazione e per la prima volta un aumento della capacità produttiva sostenibile in Italia, sostenibile. Io non lo so se tra 5 anni finalmente Francia e Germania andranno ad esaminare quelli che sono i loro problemi, oppure se si ripeteranno storie più o meno patetiche come quella di Opel, che sembra una storia italiana e invece è in Germania. Quello che è sicuro è che così non si va molto avanti. Oh, io interrompo un secondo Bertone, perché questo è vero, non abbiamo sottolineato abbastanza in questa trasmissione che Marchionne va sempre reso atto che è uno che è andato alla Fiat 5 anni fa, quando la Fiat era morta, fallita tecnicamente. In 2-3 anni era chiaro a tutto il mondo che l'aveva risanata e tornata all'utile, e poi è saltato su questa grande possibilità offerta dalla crisi dei grandi colossi dell'auto americana, e obiettivamente la possibilità di prendere per la coda con 15 miliardi di dollari del contribuente americano Chrysler, entrare in questa grande realtà planetaria per riprodurre al meglio il risanamento di Fiat in Chrysler, effettivamente questo a Marchionne va reso atto. Torniamo un secondo a Termini Imerese, visto che c'è il sindaco collegato, non so quanti secondi riusciamo a tenerlo, con Salvatore Burrafato. Sindaco, chiedevo qual è la vostra cognizione diretta? Dunque, la cosa che la presa di posizione di Marchionne, che viene definita chiara e quindi da qualcuno encomiabile, mi pare che, come dire, sia scellerato per una parte del paese, cioè Termini Imerese ha un suo territorio che forse aveva ben altre vocazioni. Fiat c'è stata per 30 anni, improvvisamente con un piano industriale non si può dire basta con uno stabilimento per questioni semplicemente diseconomiche. Voglio dire, senza manco avere la capacità di sedersi intorno ad un tavolo e dire no alle convenienze economiche che il governo regionale ieri per bocca del suo presidente ha messo in campo. Questo ci sembra davvero il tentativo di tagliare un ramo perché forse serve a altri territori. Questo ci sembra davvero una scelta scellerata. Io sono convinto che bisogna lavorare sul numero di auto da fare in Italia. Secondo noi la soglia non è 1 milione, si può alzare ancora, e dentro questo ragionamento trovare o tentare di trovare quali condizioni mettere in campo per far sì che lo stabilimento di Termini sia, come dire, che regga il mercato e che regga i costi. Ieri Marchionne diceva Termini paga un prezzo perché non ha né un indotto né una logistica. Mi pare che i piani industriali li faccia lui, quindi sull'indotto, se vuole, può intervenire. Sulla logistica è chiaro che i governi nazionali e regionali, se credono ancora in quel territorio, se ritengono che la sorte di 2200 famiglie merita un investimento, si può ancora lavorare. Recidere Termini mi sembra privilegiare qualche altro aspetto del sistema. Da questo punto di vista, concretamente, lei immagina che sia possibile ancora, però? Perché io, da quello che ho capito, il governo non considera affatto le parole di Marchionne di ieri come la parola definitiva, è vero? È ricaduta la linea? Benissimo, è ricaduta la linea. Allora, Francesco da Torino al volo, Francesco, prego, brevo. Sì, Allora, senti, io volevo fare solo così una provocazione. Mi sembra paradossale che la decisione di Marchionne di chiudere alcuni stabilimenti in Italia sia dovuta solo dal fatto di un costo di produzione superiore rispetto ad altri paesi. Questo sicuramente è una verità, ma se il costo è di 600 euro, io credo che in Italia chi ha intenzione di acquistare Fiat sia disposto anche a pagare quei 600 euro in più pur di salvaguardare dei posti di lavoro. E quindi credo che questa potrebbe essere anche una decisione, una strada da poter percorrere, ma in realtà il problema probabilmente, anzi sicuramente è molto più ampio, nel senso che credo che stiamo pagando, soprattutto Marchionne, la FIA sta pagando quello che appunto è stato l'accordo con Chrysler. Chrysler, avendo preso 10 miliardi di dollari dal governo americano, questa è la quota che dobbiamo pagare noi come italiani e come Fiat. Ah, quindi la cosa di Francesco è addirittura che questo è c'è un costo addirittura per sì, partecipare alla sfida di Chrysler. Questa è una versione che non avevamo ancora preso in considerazione. Eccoci tornati in studio, approfittiamo dei pochi secondi in cui reggerà il collegamento di nuovo con il sindaco di Termini Imerese, Salvatore Burrafato. Dicevo, da quello che ho capito nell'incontro di ieri, per il governo quella di Marchionne non è, ripeto, non è la parola definitiva. Ce lo può confermare? C'è ancora quindi una prospettiva aperta o no? Io penso di sì, perché il ministro Scajola ha preteso di avviare un tavolo che sarà fatto sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che avrà un profilo tecnico al Ministero per lo Sviluppo Economico. A quel tavolo parteciperà la Regione Siciliana, che ha una serie di argomenti, una serie di convenienze sotto il profilo sicuramente della logistica da mettere a servizio. Ringrazio il sindaco, come si vede pochi secondi erano promessi, pochi secondi sono stati, cioè lo stato, le infrastrutture del nostro paese, lasciate che me lo dica, io lo ripeto sempre, poi diciamo banda larga, ma qui ferrovie, aerei, telefonia fissa, mobile, è da terzo mondo. Poi io capisco anche che Marchionne abbia una sfida mondiale, perché poi di questo noi non siamo abbastanza consapevoli, ma guardate che le condizioni di questi giorni fanno molto riflettere su come si possa fare logistica, trasporti per integrare costi e margini in maniera verticale nel nostro paese. Basta vedere che non si riesce neanche a telefonare. Ecco, detto tutto questo, concentriamoci in questi ultimi minuti con Andrea Giuricini e Paolo Malagodi sulla parte finale dell'intervento di Marchionne, che è quella che sui giornali di oggi non trovate. Marchionne a un certo punto dice testualmente si è parlato spesso in questo paese come della Fiat che ha impedito che altre case venissero in questo paese. Questa posizione della Fiat è finita. Vi assicuro che oggi non è più così. Saremmo noi oggi i primi a salutare con favore un cambio di rotta, ha detto Marchionne. Saremmo ben felici che il contesto italiano diventasse attraente per altre imprese dell'auto, che le spingesse a scegliere tra tante opzioni possibili di investire proprio in Italia. Credo che ci sia ancora molto da fare per rendere reale questa visione, ma la prima cosa è decidere di volerlo. È la prima volta in effetti che l'amministratore delegato di Fiat dice: ma fate venire altri nel nostro paese a farci concorrenza. Giuricin, che cosa vuol dire? Sa che è un flatus voci, sapendo che tanto non avverrà perché la politica chiederà ancora di più a Fiat cose, oppure in realtà siamo ancora in tempo secondo lei perché qualche altra casa europea e mondiale possa venire qua negli insediamenti italiani? Io non sarei così pessimista che mai potrà venire un nuovo produttore straniero in Italia. Certo, la situazione attuale è molto difficile. Le parole di Marchionne sono importantissime, forse sono una sfida al governo, che dice vediamo se siamo in grado di attrarre nuovi investitori stranieri. Marchionne forse sotto sotto dice: in realtà con questa situazione mai nessun altro verrà a produrre in Italia, quindi cosa chiedete a noi di aumentare la produzione a 1 milione di vetture l'anno quando la situazione con una burocrazia pesantissima, un costo del lavoro molto elevato o comunque tanti vincoli alla produzione e proprio a fare business in Italia continuano ad essere troppo pesanti. Quindi Marchionne forse sta sfidando un po' il governo con questa frase. E invece vediamo con Malagodi se non c'è un altro aspetto. Ieri ci ricordava prima Bertone, rispondendo a un ascoltatore, quello che voleva comprare italiano, dice: stai attento perché tu se compri Fiat compri un'automobile che in larga parte è fatta fuori, non è fatta da stabilimenti Fiat ma non dai 5 in Italia, dipende da che tipo di vettura Fiat compri, a seconda di dove è assemblata e dove è radicato la filiera di quel modello. Seconda cosa, ci ricordava che noi siamo in realtà molto presenti nella filiera dell'automotive, e cioè di tutti la componentistica dei sistemi integrati che fanno poi un'automobile, a prescindere se poi sia Audi, BMW o che cosa. Allora, non è che per caso in Italia noi, per le caratteristiche della nostra meccanica dell'automotive, siamo proprio orientati a specializzarsi nell'essere meno bravi o meno presenti nel segmento di assemblare e di metterci un marchio sopra, ma siamo molto più presenti degli altri in tutta la filiera sottostante, che quindi in qualche misura è avvenuta una specializzazione internazionale in termini di vantaggio comparati ai ricardiani, per cui i tedeschi soprattutto in Europa e un po' i francesi saranno quelli che avranno i volumi maggiori con la propria brand nazionale sopra, e noi siamo quelli che però in realtà più di loro, con la nostra filiera di componentistica, gli diamo i pezzi ma abbiamo meno produzione nazionale. Oppure invece, secondo te, esiste davvero la prospettiva che qui un giorno Peugeot, che ne so, Renault vengono qui e dicono: sapete che c'è, a Termini la prendiamo noi la sfida? Termini non lo so, ma altrove in Italia, ecco. Che dici, Malagodi? Sì, interessante, però si rischia di chiudere la stalla quando i buoi sono scappati, perché al di là della vicenda storica di una Ford che voleva l'Alfa e non ha potuto avere Alfa, ma questo è un discorso vecchio. Poi gli europei sono andati in Spagna, Ford, Opel, Citroën e Peugeot, i giapponesi sono andati in Inghilterra, Nissan, Honda, in Francia, nonostante ci siano due produttori, si è accettato un insediamento Toyota per la Yaris a Valenciennes e per di più quello della Smart del gruppo Mercedes. Poi la Suzuki è andata in Ungheria, sono arrivati i coreani, sono andati nell'ex Europa orientale con gli altri europei, con Toyota e tutto il resto, che ha fatto con PSA la convention, joint venture per l'IGO, eccetera. Cosa resta oggi di mobile sul mercato mondiale? Perché noi dobbiamo vedere il quadro globale. Mia opinione, sono i cinesi. I cinesi hanno un loro mercato che è diventato il primo del mondo e al 50% fatto da aziende in joint venture tra Volkswagen, che esporta solo se Volkswagen Europa decide, come Honda produce in Cina una vettura, la Jet, che esporta in Europa, altrimenti gli altri sono produttori indipendenti che producono in parte per il mercato nazionale. Wuling è un produttore di piccoli veicoli per gli usi rurali, ma Chery è uno che ha clonato prima una Panda e oggi ha ambizioni di essere un costruttore che abbia dimensioni mondiali. Ti interrompo per fare aspetta altri. Paolo, ti interrompo per tentare di far capire meglio chi è a casa, ma tentare di salire sull'auto cinese, per capire, molto più probabilmente significherà tentare di aprire in joint ventures o al 51% per produttori, magari Fiat, ma insomma europei o mondiali, propri stabilimenti in Cina, più no, che molto probabilmente aprire stabilimenti cinesi in Italia, o no? I vincoli del mercato cinese, è chiaro che la Volkswagen è al 50% con l'autorità di governo o nazionale o provinciale, ma Chery è un produttore che ha capitale proprio, Chery si muove nel mondo con un suo marchio, non ha bisogno dell'autorizzazione dello Stato e quindi può venire in Italia. Great Wall distribuisce in Italia dei fuoristrada su una vecchia base Mitsubishi che loro hanno comprato, ma sono un loro marchio e un loro prodotto autonomo. Quindi Chery prima o poi vorrà diventare un produttore mondiale o con lui qualcun altro e dovrà insediarsi in Europa, e non c'è niente di meglio dal punto di vista logistico per le relazioni con la Cina via Suez che pensare al meridione d'Italia. Certo, perché a quel punto c'è una questione di assi mercantili commerciali navali. Io non lo so se qualcuno della regione Sicilia o il sindaco del Termini Imerese ci sta ancora ascoltando, però questa questione di andare a offrirsi ai cinesi, insomma, ha una sua suggestione. Massimo da Torino, prego Massimo, lei come la pensa? Buongiorno innanzitutto, io volevo solo cercare un attimino di capire per quanto riguarda questi incentivi che la Fiat chiede, ma mi domando, non si possono legare gli incentivi che il governo dà alla produzione dell'auto che viene realizzata in Italia? Io giro la sua domanda a Giuricini, la risposta è no, perché Bruxelles, cosa facciamo? Ci mettiamo a distinguere per casa nazionale all'interno del mercato europeo? Mi scusi, allora io direi, si parla tanto di tracciabilità delle merci, sì, no? Le merci sono tracciate, cioè, ad esempio vado su un altro ordine di prodotti, parliamo degli alimentari, sì, il DOC, il mica DOC, sì, e la merce tracciata, la merce non tracciata, ma secondo me si può giustamente arrivare nell'informatica, tra l'altro con l'applicazione dell'informatica, sì, si può tranquillamente arrivare. Vabbè, ma la sua proposta resta, facciamo gli incentivi solo per la produzione nazionale. Ma, sì, ma scusi, no, Bruxelles dice di no. Comunque giro la cosa ad Andrea Giuricin, prego Giuricin, risponda, no, all'ascoltato. Assolutamente non si può fare, sarebbe un aiuto di Stato, è stato fatto informalmente da Sarkozy nel febbraio scorso, una proposta del genere, diciamo, dare 5,5 miliardi di finanziamenti a Renault e a PSA in cambio del mantenimento informale della produzione, subito è nato un caso europeo con la Repubblica Ceca che ancora un po' andava ad invadere la Francia, perché è una proposta antimercato, anticoncorrenziale, chiaramente una... Giuricini, io ho l'obbligo, per noi che appunto ci occupiamo di regolazione, siamo liberisti e così via, dobbiamo anche ricordare che chi è a casa però dice: ma guarda, ma sentili un po' questi signori che dicono no perché è un aiuto di Stato, ma perché gli incentivi non sono in quanto tali aiuti di Stato e non sono forse autorizzati proprio all'auto, mentre, ricordiamolo per chi è in ascolto, tutti gli altri settori della produzione non ce l'hanno. Scusate se alzo la voce su questo, ma anche nel mondo Confindustria bisogna su questo poi sottolineare, e io so che le altre categorie dell'impresa sono giustamente un po' incavolate, ma detto questo, giudice, in cosa rispondiamo a chi ci ascolta e dice come no perché sono aiuti di Stato, visto che sono tutti aiuti di Stato? Prego. Innanzitutto gli incentivi, a mio parere, sono una misura molto sbagliata. Gli incentivi, tuttavia, così come sono fatti ora, non sono un aiuto di Stato vero e proprio. Perché? Perché vengono dati a tutte le case automobilistiche, non viene fatta una distinzione in funzione della produzione nazionale, ma è semplicemente un abbassamento, diciamo, un incentivo a tutti quanti vendano in Italia. Quindi è diverso, mentre dare un aiuto direttamente a un solo prodotto che può essere nazionale, in quel caso diventa un aiuto di Stato. Esattamente, e questa è la distinzione, per quanto possa sembrare a molti di lana caprina, visto che sono aiuti di Stato, ma non aiuti di Stato in quanto si danno a tutti. Siccome non possiamo distinguere, ognuno concorre poi in ragione di quali tipi di prodotti offre al mercato più ecocompatibili. Devo ammettere che la riduzione in effetti dei livelli di CO2, comunque la pensiate sui livelli di CO2, quest'anno grazie agli incentivi è avvenuta, e se gli incentivi verranno estesi a tutta la classe Euro 2 come chiedono i produttori, sarà comunque forse l'effetto più notevole di questi incentivi. Continueremo a parlare comunque delle richieste Fiat. Per termine, comunque, il discorso è chiuso, per Pomigliano si vedrà. A questo punto appuntamento a domani, ringrazio in regia Paolo Corleoni e sempre a Guido Scotti in redazione, la linea al giornale radio 9 in punto, la versione di Oscar.